Nicoletta, ma è proprio lei al telefono. Sì. Visto quello che succede da voi. Cecilia, come si dice, con la sua telefonata abbiamo fatto puntata. Io potrei chiudere qui, il professor Cavedini va a casa, anche il dottor Gargiulo, ma siamo tutti contenti. Dottor Gargiulo, ma è davvero lei a dirlo? Sono davvero io. È lei davvero, davvero? Cuore e denari, di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. La bellezza dobbiamo avere voglia di costruirla, di toccarla, di vederla, ma anche di sentirla. E uso un verbo non a caso, perché qui parliamo di musica. Si può sentire la bellezza, sì, certamente. Si è inaugurata ieri la 64esima edizione del Festival di Sanremo e la buona musica è entrata nelle case di milioni di italiani e probabilmente qualcuno dei brani ascoltati vi è già entrato in testa. Sarà capitato anche a voi di avere una musica in testa, sentire una specie di orchestra, suonare, suonare. A tutti sarà capitato di avere una musica in testa. Succede che per una strana alchimia un ritornello ascoltato quasi di sfuggita, apparentemente senza alcuna attenzione, risuoni nella nostra mente sino a diventare martellante. Sappilo che me ne sto andando. Dai che oggi cantiamo. Eh sì, dai. Facciamo. Parliamo di musica. Catturata dalle nostre orecchie, la musica ci entra in testa e a volte ci rimane. Voi vi siete mai chiesti perché? Noi lo chiediamo oggi al dottor Sandro Burdo. Buongiorno, medico audiologo all'ospedale Buzzi di Milano. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Lei ha sentito il Festival di Sanremo ieri, l'ha visto? L'ho visto, l'ho seguito, sì. Bravo. Certamente, come tutti gli italiani, penso. E le è capitato di avere, insomma, di catturare qualche musica? C'è una musica che le è rimasta in testa di questo festival o magari di un altro? Ma mi ha impressionato l'interpretazione di Ligabue della canzone di André, fantastica, una poesia. Si vede che ha visto solo la prima parte, poi il dottor Burdo ha mollato di Sanremo, track. No, sto scherzando, naturalmente. A Nicoletta, te che è piaciuto? Noi abbiamo avuto Rafael Gualazzi proprio, sì, qui. Sì, sì, ha fatto, sì, lui una bellissima interpretazione. Qualcuno ha detto il Blue Note a Sanremo, che è un grande locale appunto qui di Milano, oltre che di New York. Che tu frequenti con una certa assiduità. Sì, sì, molto spesso, perché anche vicino a casa mia. Mi è piaciuto Frankie High Energy, ti dirò. Una musica un po' particolare, una canzone un po' particolare, però molto moderna. Non so se il dottor Burdo lo conosce. Dottor Burdo... Conosco, no. Ma mi piace di più Gualazzi. Anche a me, sì, sì. Anche a me. Molto di più. E tra l'altro, se volete riascoltare l'intervista che abbiamo fatto a Rafael Gualazzi, potete andare sulla pagina di Cuore Denari, ecco, e scoprite, esatto, un po' dei lati nascosti di questo cantante, artista molto giovane. Quindi i ragazzi la rimetteranno sicuramente su Facebook. Allora, qual è la canzone di Sanremo che avete nel cuore e nella testa? Lo richiediamo naturalmente ai nostri amici che ci seguono da casa. Quella che canticchiate più volentieri o quella che associate in automatico a Sanremo anche nelle passate edizioni? Scrivetecelo immediatamente sul profilo Facebook Cuore Denari Radio 24. Voi scrivetecelo, ma noi non ci limiteremo a leggerlo, vi diremo anche qualcosa di più. Insomma, dimmi che canzone ti suona in testa e ti dirò chi sei. Buongiorno, dottor Aquila, è in linea con noi, psicologo e psicoterapeuta cognitivo, esperto del nostro Daily Lab. Buongiorno e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Dottor Aquila, lei ci darà una mano. Con molto piacere. Quali indicazioni ha bisogno dei nostri ascoltatori? E provi a fare un esempio di quello che potrebbe essere un po' la sua risposta, intanto per alluzzarli un po'. Ma certo, possiamo scegliere, per esempio, nella nostra memoria, qual è la canzone di Sanremo di tutti i tempi che ci ha colpito di più. E a quel punto possiamo provare a fare delle ipotesi. Per esempio, se un ascoltatore ci dicesse che la canzone che gli è piaciuto di più è Se sei buono ti tirano le pietre, sei cattivo e ti tirano le pietre. Che è un po' la mia preferita. Io ero piccola, ecco, e c'era Antoine e mi piaceva questo Antoine. E poi, sì, mi piaceva la canzone, molto orecchiabile. Assolutamente sì, e in questo caso potremmo azzardare un gioco interpretativo, nel senso di immaginare che questa persona si sente sempre sotto lo sguardo indagatore e giudicatore degli altri, ma che, pur essendo un po' preoccupato di questo, contemporaneamente gode di uno straordinario senso dell'umorismo, perché ne prende le distanze e non se ne fa travolgere. Insomma, se la canta e se la suona. Se la canta, se la suona e soprattutto se la ridimensiona senza sentirsi male, che è la cosa più bella. Allora, voi scrivete quale delle musiche di Sanremo, di quest'anno, di questa edizione o anche delle passate, vi è rimasta in testa, qual è la canzone che associate a Sanremo, scrivetela su Facebook, troverete la risposta del dottor Aquilar, che però ci farà un suono ogni tanto, si farà sentire per raccontarci che cosa si sta muovendo, certo, e che cosa sta scoprendo degli ascoltatori di Cuore Denari. Tra l'altro stanno scrivendo anche al 349-238-6666, un ascoltatore scrive: l'artista che mi è rimasta in testa è Patti Pravo, Dimmi che non vuoi morire, la canzone. Un altro ascoltatore, invece magari lo analizzeremo nel corso del programma, ci scrive: Nicoletta e Deborah, volevo dirvi che io ascolto tutto il giorno con le cuffie Radio 24, ma in qualche modo mi possono far male all'udito, lo chiediamo già al dottor Burdo. Nicoletta, dottore. Dottor Burdo, stia attenta a quello che dice. Esatto, eh? No, lei dice che... Radio 24, sì, ecco. Allora, la musica difficilmente può produrre un danno all'udito, a meno che non sia una musica che supera una certa intensità. Il problema non è tanto il contenuto del suono, ma la forza, il volume del suono, la durata di esposizione, e una terza variabile fondamentale è la variabilità individuale, cioè ci sono delle persone che sono predisposte o meno a diventare sorde in presenza di rumore. La musica di per sé non è un suono stabile, quindi varia nel tempo, in volume, e l'orecchio ha sempre bisogno di momenti di silenzio per riposarsi. Ecco, la musica permette di sfruttare questo aspetto della nostra fisiologia uditiva e quindi difficilmente può provocare un danno, a meno che, ripeto, non ascoltiamo con le cuffie la musica a 100 decibel, allora è inevitabile che si producano dei danni. A proposito di decibel, posso dire che la mia canzone di Sanremo è quella del gruppo di Enrico Ruggeri che negli anni 80 presentò Contessa. Vabbè, dai, vabbè, perché cosa tu hai un debole anche per Enrico Ruggeri. Esatto, dai. Ormai oggi lo così ufficializzo a tutti, e quindi saluto con affetto Giulia che su Facebook ci scrive: la canzone che mi ricorda Sanremo, Si può dare di più, del mitico trio quando Ruggeri cantava con Netozzi e Morandi. 800 24 00 24, iniziate a chiamare, anzi già lo state facendo, potete come sempre seguirci su Facebook e su Twitter o scriverci al 349-238-6666. Parliamo di musica, un'occasione straordinaria di benessere. I ricercatori ne hanno indagato e misurato gli effetti sul piano fisico-mentale. In questo caso la letteratura è molto ampia. Se volete saperne di più, potete andare sulla pagina Facebook di Cuore Denari, dove vi segnaliamo il sito della Fondazione Mariani e quello del San Raffaele. In modo particolare potete riascoltare sulla nostra pagina un'intervista alla professoressa Daniela Perani, che sottolineava l'importanza della voce per i bambini, della voce delle loro mamme, dei loro genitori, che produce degli effetti straordinari, soprattutto li aiuta a crescere. Dottor Burdo, insomma, la musica aiuta? No, l'aiuta, non solo aiuta, è determinante per lo sviluppo, chiamiamolo cognitivo-linguistico di un bambino, perché la musica anticipa il linguaggio. Ovvero le componenti frequenziali di intensità e di ritmo della musica anticipano il linguaggio, tant'è che i bambini piccoli appena nati comunicano attraverso la prosodia, cioè attraverso la musica delle parole. Se lei esprime con un senso, come si può dire, di ammirazione a un bambino, dice: come sei brutto, lui sorride, perché è la prosodia, cioè la musica della parola, che comunica il significato. Poi, diventando adulti, sono le parole che sostituiscono la prosodia. Quindi la musica, sentita addirittura in gravidanza dal bambino, quando il bambino è ancora nel ventre della madre, lo aiuta a uno sviluppo cognitivo formidabile, tant'è che ci sono dei gruppi, ad esempio gli zingari, alcune popolazioni zingare suonano il violino sì. alle donne incinte a lungo tempo, e si vede proprio il movimento del feto quando il papà suona, la chiamano la musica degli dei, proprio per questo motivo, fantastico. Fa bene ai bambini, ma fa bene anche a chi non è più bambino, perché la musica riduce i livelli di cortisolo, il ben noto ormone dello stress, e favorisce la produzione dell'ossitocina, l'ormone del benessere. A queste conclusioni è arrivato un ricercatore della McGill University, che ha passato in rassegna 400 studi che avevano analizzato gli effetti della musica dal punto di vista neurochimico. Insomma, dottor Burdo, sembra che il benessere parta dalle nostre orecchie. Meglio tenerle quindi da conto, è quello che vogliamo, di cui vogliamo parlare oggi insieme a lei e ai nostri ascoltatori, e individuare precocemente anche dei segnali di malessere, delle stonature, diciamo così. Sì, ecco, la cosa importante, che secondo me è poco nota, è che le orecchie si diversificano al destro con il sinistro. Intanto ciò che noi sentiamo con l'orecchio destro è analizzato prevalentemente dal lobo sinistro e viceversa, quindi si incrociano le vie uditive. E la cosa importante è che i due lobi corticali, cioè le due parti di cervello, voi sapete che il cervello è diviso in due parti ed è unito da un collegamento che si chiama corpo calloso, ovvero quindi la parte destra elabora la musica, perché è il nostro cervello, chiamiamolo artistico, emotivo. La parte sinistra invece è razionale, analizza la parola, la matematica e così via. Quindi per avere uno sviluppo armonico e completo del cervello bisogna non solo utilizzare entrambi gli orecchi, per intenderci, ma bisogna anche differenziare gli stimoli, per cui la musica va a stimolare la corteccia destra, e quindi tutta l'emotività è influenzata, e quindi di conseguenza il benessere, da ciò che noi sentiamo con l'orecchio sinistro. Allora, se il benessere passa dalle nostre orecchie, chiamateci per dirci come vi sentite quando ascoltate musica, quale musica sentite, quale musica vi è rimasta in testa e nel cuore. Lo state già facendo inviandoci tanti titoli, tanti testi di canzoni, titoli di tante canzoni al 349-238-6666. Va molto anche Trottolino Amoroso. Ah, già hai visto, allora hai già notato, appunto, effettivamente molto orecchiabile, poi può piacere o non piacere, ma non si può non ricordarla. E diteci anche come ci sentite, perché c'è una ragione in più per proteggere il nostro udito. Le ricerche ci dicono che c'è una relazione molto stretta, bidirezionale, tra udito e funzioni cognitive. Ne parleremo nel corso della trasmissione, questo per dire che chi ben ci sente invecchia meglio. Ottimo. Ho un dubbio che mi ronza nell'orecchio però, Nicoletta, e non credo di avere un disturbo, perché la musica diventi occasione di benessere, deve essere piacevole, deve essere musica, non rumore, perché non sempre quello che sentiamo ci piace, anzi, e lo sapranno probabilmente molto bene tutti coloro che hanno vicino qualcuno a cui piace canticchiare ma che è stonato come una campana. E Sanremo non Sanremo, si sa, noi italiani siamo un popolo di canterine e ci piace cantare soprattutto tra le mura domestiche. Nella settimana di Sanremo, il portale casa.it ha condotto un sondaggio intitolato «Dove preferisci cantare?» per conoscere meglio le abitudini canore degli italiani. I risultati dicono che il 57% delle donne intervistate preferisce cantare nelle varie stanze mentre fa le pulizie, il 24% sotto la doccia e solo il 19% mentre prepara il pranzo o la cena in cucina. Al contrario, il 40% degli uomini predilige la doccia per prodursi in performance canore. Ma gli uomini non disdegnano di esibirsi anche mentre passano l'aspirapolvere o preparano la cena. Il bagno, quindi, risulta il luogo ideale della casa per rilassarsi cantando. Il 71% degli italiani dichiara di aver cantato almeno una volta sotto la doccia, impiegando in media tra i 5 e i 15 minuti. E allora 800 24 00 24, se volete divertirvi con noi e raccontarci qual è il luogo migliore dove potete mettere così in mostra le vostre performance vocali. Io in macchina con la radio, tu? Ah, io canto un po' ovunque, anche in studio. Ecco, esatto. Però, dottor Burdo, lei dove canta? Non la vedo tanto passare l'aspirapolvere. E che ne sai tu? No, magari, secondo me magari è un ometto di casa, dottor Burdo, di tutto rispetto. Lei canta? Eccoci. Io canto canto, sì, beh, come tutti gli uomini sotto la doccia ogni tanto. Certo. E quindi si è allineato perfettamente all'indagine della quale abbiamo parlato. Ma il vicino canterino, anche se stonato, è musica per le orecchie dei condomini rispetto invece a tanti altri rumori che molti di noi, abitando in palazzi anche molto grandi, insomma, siamo costretti a subire, e sono rumori non a caso definiti molesti, che disturbano la quiete dell'intero condominio. Sono venuto presto stamattina, così pensato di stirare un po' di camicie di Giulio. Ma che è sta musica a palla? Cosa? La musica, non dico, un po' più alta la potevi mettere. Ma come? Sei bassissima. Le lezioni di piano del vicino, la TV al massimo volume, il portone sbattuto, la lavatrice, lo sciacquone. Quante volte tirano questi sciacquoni? Sì. Il dirimpettaio che deve ristrutturare il proprio appartamento, è colpa tua perché tutte le volte ristrutturate il 50% in meno, e che martella in continuazione, insomma, non se ne può più. Hai fatto un elenco veramente dettagliato e pertinente. Non ho messo il cane che abbaia. Ecco, perché lì sei un po' in difficoltà tu. Si lamentano i tuoi vicini per la... la Emma, la Emmona? No, perché la Emma è troppo carina. È troppo carina, quindi non possono. Però insomma, su questi rumori siamo esperti un po' tutti. Allora, 800 24 00 24, diteci qual è il rumore che rende proprio insopportabile il vostro vicino, o qual è stato un motivo per cui un vostro vicino si è lamentato o si lamenta per un vostro comportamento rumoroso. Noi oggi vi aiuteremo a capire come ci si comporta quando i rumori fanno litigare in condominio. Buongiorno a Francesco Burrelli, vicepresidente vicario di ANACI, che è l'Associazione Nazionale degli amministratori di condominio. Buongiorno. Buongiorno a voi tutti. Buongiorno. Grazie. Lei canta sotto la doccia? Io canto, mi piace cantare, anche se non sono molto intonato. Invece mio padre era veramente un cantore, perché andava a cantare i matrimoni quando era giovane, molto giovanissimo, ma aveva una armonica a bocca e cantava ed era intonatissimo come mia figlia. Invece io sono stonato, però mi piace molto la musica e mi piace molto cantare. Magari ha preso dalla mamma. No, diciamo di no, diciamo che ha preso mio padre, sono io che non ho trasmesso quello, ho trasmesso altre cose, però non sono riuscito a trasmettergli quello che magari mio padre poteva trasmettere a me. Può darsi che poi sia anche intonato, non ho fatto mai di questo. Dottor Burdo, è questione di orecchio? Secondo me sì, è anche questione di orecchio, vale la sioma. Si parla come si sente, quindi si potrebbe anche estendere questo concetto al si canta come si sente. Molto probabilmente il nostro l'organo uditivo io non mi metto tra gli stonati, perché sono intonato, quindi l'organo uditivo è anche un po' modesto, te lo dice lui, è anche un po' modesto, poi ci canta qualcosa, fa come dicono a Napoli, però è così. Io penso che l'elaborazione uditiva dello stonato sia un po' diversa rispetto a quella degli intonati, perché ha una sua logica. Quindi mi scusi, ma questo vuol dire che chi è stonato, si sente stonato, sente un po' meno bene? No, non è che senta meno bene, attenzione, qui è una qualità del suono che è molto, molto, ma molto sofisticata. La percezione della musica, qui c'è una variabilità individuale molto, ma molto alta e maggiore rispetto alla percezione della parola, perché... Lo stimolo musicale è molto più esteso in frequenza e molto più sottile in durata. Alcuni suoni non c'è confronto con lo stimolo della parola, per intenderci. Per cui qui subentra veramente la differenza di ascolto, la differenza percettiva tra gli individui. Tant'è che esistono i veri musicisti, quelli bravissimi, hanno l'orecchio assoluta. E allora, e averli in condominio deve essere una tragedia. Ma magari così ingentilisce anche un po' le pareti domestiche di questi edifici, che in queste città, insomma, qualche volta sono un po' anche tristi. Qua a Milano tutti grigi, e cantiamo un po'. C'è un ascoltatore che ovviamente, che cosa ha capito di tutto il programma? Non si può cantare sotto la doccia perché si spreca un sacco di acqua, non bisogna sprecarla, cantiamo altrove. E vabbè. Ha ragione, mentre Andrea ci ascolta per coprire i rumori perenni del suo vicino. Allora, adesso ad Andrea. Adesso urliamo, cantiamo. Certo, daremo anche delle indicazioni per capire come difendersi da questi rumori molesti. Esatto, nella seconda parte del programma vi vedremo un po' l'ABC dell'insonorizzazione delle pareti domestiche. Ma intanto torniamo al nostro vicepresidente della NACI, l'Associazione degli Amministratori di Condominio, Francesco Burrelli. Liti condominiali dovute ai rumori molesti sono molto diffuse. Il rumore fa proprio salire il sangue alla testa. Quante controversie dovete gestire su questo problema? Se ho un secondo, volevo dire qualcosa di più sulla musica, visto che stiamo parlando sulla musica. Certo. Su quello che riguardava la stonatura e su quello che riguardava l'entità, visto che c'è anche il dottor Burdo e che l'avevo già sentito altre volte parlare di queste cose. C'è un'indagine. Ah, quindi ci ascolta. Certo. Guarda che gli amministratorini. Allora, guardi che io ho sintonizzato la mia macchina su Radio 24 ed è sempre lì. Solo quando arriva mia moglie cambia, perché mi piace un altro tipo di programma, ma io sono sempre sintonizzato su Radio 24. Ma anche per altri motivi. Convinceremo allora, anche sua moglie. Lei è salito sul podio dei nostri ospiti preferiti. Eccoci Li mettiamo un po' di musica. L'indagine lui la saprà sicuramente, è un'indagine di moltissimo tempo fa, di quando mia figlia era piccola. Cercavo delle cose perché, visto che avevo capito che a me piaceva la musica e quindi questa musica io la volevo trasferire, ma forse non ero in grado, forse non l'ho sufficientemente curata per poterla trasferire, avevo trovato uno studio su Mozart dove tutti, diciamo così, gli studi portavano a chi sentiva la musica di Mozart da piccolino, anche durante il lavoro, durante un sottofondo, anche durante lo studio, quindi anche studiando il sottofondo di Mozart, apprendeva 10 volte tanto rispetto a una persona a parità di condizioni intellettive, apprendeva 10 volte tanto. Beh, io questa cosa l'ho provata, l'ho portata avanti con mio figlio, lo facciamo ancora tuttora e i risultati sono stati anche... mia figlia si è trovata da pochi giorni con il massimo di voti e con la lode, quindi però anche l'altra ha avuto un merito di Mozart. Quello per dire che la musica ha un effetto, la musica ha un effetto sul nostro udito e sul nostro benessere, sul nostro, diciamo così, pensiero, solo ed esclusivamente se quella musica viene accettata. Quindi non è detto che tutta la musica, anche per bella sia, se noi la dobbiamo accettare, però l'accettiamo da un punto di vista intellettivo razionale, ma c'è una parte irrazionale che potrebbe non accettarla. Quindi quella parte razionale, se l'accetta, allora fa davvero quel beneficio che dovrebbe fare. Ma tu pensa che noi pensavamo che il lavoro dell'amministratore di condominio fosse sempre lì un po' grigio, a così gestire numeri, problemi e rogne dei condomini, invece Burrielli altro che no. E quindi lei tutto il giorno, prima di convocare le assemblee di condominio dei suoi assistiti, una bella Mozart Day. Ogni tanto, sì, eccoci io qua. Io ce l'ho nel radio, ogni tanto lo giro lo faccio. Per ritornare invece al discorso... Adesso però deve fermarsi un attimo, perché devo fare una cosa, perché sono le 11.31. Purtroppo devo ritornare qua sulla terra, mollare la musica, andare ai tristi numeri della borsa. Cuore e denari. Liberi o no del nostro Raffaele Gualazzi, sì, ormai nostro, ormai un amico nostro. Di Cuore Denari, sì. Che dimostra che a partecipare a Cuore Denari anche in carne e ossa, lo dico al dottor Burdo, che ascoltarlo, non si materializza mai, che è un'entità ormai ancora astratta, porta buono, ecco, porta fortuna, quindi rimanete collegati perché oggi parliamo di musica, di come la sentiamo e quindi di come funziona anche il nostro udito. Abbiamo visto che è dalle orecchie, no, che passa un po' anche il nostro benessere, e parliamo anche di quei rumori che non sono musica ma sono proprio occasioni di liti condominiali e abbiamo tanti ascoltatori che... persino Pompeo su Facebook, senti questa, che si lamenta del fatto che ieri sera era causa condomino litigioso, non posso esprimermi, dice, per il Sanremo di ieri ho dovuto ascoltarlo piano, ma ho ascoltato Cat Stevens con grande piacere, quindi hai sentito, non si è neanche potuto godere la prima serata di Sanremo, il nostro Pompeo. Andiamo a Bergamo, c'è Elisabetta, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicoletta e anche la sua amica carissima, siete bravissime e grazie di tutto quello che almeno io riesco a imparare attraverso i medici e voi. Grazie. Volevo fare una domanda per cortesia al signore dell'ANCI, il vicepresidente, sì. Riguardo al condominio. Perché? Nel mio condominio c'è una persona che fa rumore, ok? La persona sotto se la prende con l'amministratore dicendo che l'amministratore dovrebbe intervenire. Io a una radio di Bergamo ho sentito che l'amministratore non può fare niente. Volevo chiedere se davvero è così? Grazie. D'altronde, grazie cosa può fare? Oltre a magari, che ne so, gli manda un po' qualche mail, gli può dire per cortesia, abbia un atteggiamento un po' più rispettoso verso gli altri. Avete le mani legate, insomma, Burrelli? Ma direi di no. Cioè, direi che comunque la negligenza è comunque la operosità dell'amministratore, soprattutto oggi che è diventato un professionista, lo avrebbe dovuto fare anche prima, ma oggi che è diventato un professionista rispetto al 71 bis della nuova legge 220, qualcosa lo devo fare, comunque deve mettere in atto qualcosa. Prima cosa che deve fare, deve vedere se nel regolamento di condominio è previsto, perché se nel regolamento del condominio è previsto e si dimostra un danno alla salute, già col regolamento io lo posso perseguire in una determinata maniera. Ma come si fa a dimostrare che è un danno alla salute? Un po' il sistema. Un danno alla salute ci sono oggi dei metodi abbastanza provati, il dottor Burdo ne sa qualcheduno, quindi io lo posso dire, ma lo può dire anche il dottor Burdo, ci sono delle prove che si possono fare, che se quel rumore non è un rumore casuale, cioè il rumore della serie è un rumore casuale, ma un rumore continuo, persistente nel tempo può essere misurato, i dB si possono misurare, c'è uno strumento, un fonometro che si possono misurare, e se io questi rumori li vado a misurare periodicamente con un fonometro e con una persona terza, posso produrle poi in giudizio e posso andare a verificare attraverso il 659 del codice penale che quel tipo di rumore è un rumore persistente che dà fastidio non solo a me per un certo periodo, ma mi dà fastidio sempre e comunque, quel rumore può dare. Ma chi può fare per la nostra ascoltatrice una perizia di questo tipo, Burrelli? E mi dica, a lei è capitato di... Anche i vigili sono, molti vigili in molti comuni sono, se c'è la polizia di prossimità o un reparto dei vigili sono dotati di fonometro, certo. O comunque attraverso anche un terzo si può rivolgere a un ordine, a un collegio, eccetera, che hanno un fonometro, sono delle persone terze, loro si mettono lì per un determinato numero di ore, non so, magari il tizio che deve fare anche dello stalking per la persona, eccetera, si mette lì dalle 10 a mezzanotte, oppure dalle 1 alle 4. Quindi tu stai dalle 10 a mezzanotte con un vigile in casa? Vorrei. Un po' imbarazzante. No, l'ho capito, lo so che è imbarazzante, però capisce che nelle situazioni estreme, però quando lei inizia a non dormire, perché quello tutte le sere da una certa ora in poi inizia tum tum tum tum tum tum tum, oppure li mette la lavatrice perché vuole risparmiare con la tariffa biorario, che tra l'altro non funziona più perché ormai è vanificata, no? Esatto, ma oppure per esempio banalmente un paio di ciabatte un po' rumorose, lo zoccolo che si porta in casa, però per questo, per dire che intanto si possono già iniziare a mandare dei solleciti, allora mandare già delle indicazioni e dire attenzione che questo reato può essere punito con 659, quindi è un'immissione. Attenzione che ci sono degli articoli e delle sentenze dal 74 ad oggi, una serie, che le possiamo anche mandare all'ascoltatrice di tutti i tribunali. Quindi quello non è un problema, io mi impegno e ci mettiamo d'accordo. Ci sono una serie di sentenze, la 247 del 74, che ha detto proprio attenzione che il rumore che molesto non è il rumore che dà fastidio a tutti, ma è il rumore della soglia minima della vivibilità di quella persona. Perché se a lei dà fastidio 20 dB, faccio un esempio banale, La televisione accesa durante il giorno sono 40-45 dB, forse 50, non dà fastidio a nessuno, pochissimo, ma se quella stessa televisione lasciata a quella diciamo così, a quel rumore lì, a quella soglia lì, alla sera lei la sente dopo le 10 di sera. Insomma, qualcosa si può fare in ogni qualcosa caso. Qualcosa si può fare, però... comunque attenzionare la persona che sta facendo un rumore. Ecco, l'amministratore può farlo, può essere lui a prendersi... Attenzionarlo, può farlo con una lettera, una mail, con una lettera, una mail, e comunque sensibilizzarlo, e comunque magari se ci sono degli uffici di prossimità in molti comuni, a Torino c'è un ufficio di prossimità dove ci sono dei vigili che sensibilizzati a questo, vanno e controllano e verificano. Perfetto. Questo tipo di rumore. Andiamo ad un altro ascoltatore? Sì, a Torino c'è anche Cesare che ci scrive, ha cantato nei Dancing di Torino e dintorni. È bravo! Sì, ci saluta, mi piace. Allora, non ho visto ancora nessuno di Ancona, che ci ha scritto oggi. Oggi si sono presi una pausa. Chissà come mai. Adesso Marco, Marco, buongiorno da Como. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, io volevo intervenire per la mia canzone preferita, che comunque mi ricorda Sanremo. Sì. È Ciao, ciao, ciao, amore, ciao, di Tenco. Con la... quella cantante francese, con Dalida, con chi la cantava? Non mi sbaglio. Sì, la cantava con Dalida, esattamente. E quella mi è rimasta dentro, ero giovane, quindi mi ha colpito la situazione, a parte che la canzone mi piaceva e mi continua a piacere. Però volevo anche intervenire a proposito dell'udito. Io ho 62 anni e ho una deficienza un po' all'udito destro, all'orecchio destro, l'ho fatta vedere, mi ha detto sì, così se poi hai fastidi vedremo cosa fare. Allora, siccome ho sentito oggi che voi parlavate che si invecchia male, si sente male, sì. Allora volevo capire, devo fare qualcosa, visto che lì c'è un professore, allora potrebbe magari darmi... Potrebbe dare delle indicazioni concrete il dottor Burdo e spiegarci bene la relazione tra funzioni cognitive e orecchie e anche umore? Certo. Certo. È fondamentale, sia nell'età pediatrica che nella terza età, nei due momenti di maggior fragilità per quanto riguarda gli aspetti cognitivi. Da bambino la musica, tornando alla musica, ha parlato prima dell'effetto Mozart, è fondamentale allenare l'udito per diventare dei buoni ascoltatori, e lo strumento ideale per allenare l'udito è la musica, soprattutto la musica classica. Parliamo di musica non cantata, di musica suonata, perché ha una banda di frequenza molto estesa, ci costringe a fare delle analisi molto fine, e questo ci permette alla fine, quando diventiamo adulti, di attivare quella che si chiama l'attenzione selettiva, cioè saper cogliere all'interno del rumore, del brusio, ciò che ci interessa sentire. In questo momento favoriamo le attività cognitive. Se poi non ci sentiamo bene nella seconda età, per questo è il punto, va a finire che nella terza età, se siamo predisposti tra virgolette alla demenza, questa predisposizione diventa una realtà, si concretizza, perché noi siamo quel che siamo, la nostra intelligenza, le nostre capacità cognitive passano attraverso l'udito e successivamente attraverso gli occhi. Attenzione, non confondiamo vista con udito, perché la cecità separa gli occhi, gli uomini dalle cose, e la sordità separa gli uomini dagli uomini, quindi non riusciamo a comunicare e tutti gli aspetti cognitivi vengono a essere inficiati. Quindi l'udito è la porta d'ingresso delle nostre capacità cognitive. Lo dobbiamo allenare da bambini e lo dobbiamo mantenere e sostenere da adulti. Sai che c'è, Nicoletta, un ascoltatore che lo sostiene, Ugo da Milano, che dice: l'udito si educa come il gusto, il bello e altro ancora. A proposito, il festival di quest'anno è dedicato proprio alla bellezza. Dottor Burdo, quindi un consiglio per i nostri ascoltatori che hanno dei problemi di udito, si chiama in termine tecnico ipoacusia, è un disturbo con cui facciamo i conti, perché con noi pensiamo, crediamo di avere questa spada di Damocle, cioè che con il passare degli anni dobbiamo fare i conti con una diminuzione dell'udito, che abbiamo visto che porta in qualche modo anche ad avere problemi per le nostre funzioni cognitive. Che cosa si può fare? Ma la prima cosa fondamentale è fare outing, e mi rivolgo ai 40-50enni che continuano a barare, affermando di sentirci bene, in realtà barano quando fanno finta di capire. Mi rivolgo a loro perché sono molto numerosi, arrivano in terza età con un udito ormai compromesso in un modo molto significativo, dove si può far poco. Le cose vanno fatte all'inizio della sordità, e questo nella maggior parte dei casi avviene in età adulta tra i 40 e i 50 anni. Quindi queste sono le persone che devono dedicare l'attenzione, e soprattutto devono affermare agli altri e confermare di avere un problema uditivo, e non di essere delle persone isolate, piuttosto che, quindi, con problemi, chiamiamoli, psicologici. Quindi i segnali che ci possono far capire che il nostro udito sta diventando fragile sono tanti, ne abbiamo parlato tante volte: alzare il volume dell'autoradio, della TV, della radio, avere difficoltà a capire durante le due persone che parlano, magari in un ambiente rumoroso, avere una certa sensibilità ai toni diversi, vero dottor Burdo? Certo, e soprattutto i famosi acufeni, che non sono altro che la spia di una perdita dell'udito. Non consideriamo gli acufeni come una malattia. L'acufene è il sintomo principale della sordità. Per eliminare gli acufeni dobbiamo curare la sordità. Non esiste. Ecco, la lei ha detto una parola magica che farà infiammare il nostro centralino 800 24 00 24. A proposito di suoni e acufeni, a volte sentiamo suoni anche quando intorno a noi, e soprattutto quando intorno a noi c'è silenzio. E adesso facciamo silenzio perché andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. Cuore e denari. Tornerò fra 20 minuti. Cerchi di rilassarsi e di trovare il suo centro. D'accordo. Evviva Cuba Libre! Evviva! Purtroppo non poteva soffocare le voci della strada. Dottor Mao? Scusate? Dottor Mao, non riesco a concentrarmi. C'è una stanza più tranquilla perché cerco di rilassarmi e trovare il mio centro, ma non ci riesco con questo. Charlotte, questa città non si calma mai. Lei deve imparare a bloccare il rumore di New York e ascoltare solo se stessa. Charlotte cominciò a pensare che la soluzione al problema non fosse trovare il suo centro, ma dei tappi per le orecchie. 800 24 00 24, condividete con noi non solo le vostre preferenze musicali legate un po' anche alle canzoni che avete sentito ieri sera a Sanremo, ma condividete con noi i vostri problemi legati magari a qualche questione di udito e a qualche problema di condominio. Con noi questa mattina anche Francesco Burrelli, vicepresidente vicario nazionale della NACI, l'Associazione Nazionale degli Amministratori di Condominio. Peraltro abbiamo recuperato di nuovo un episodio di Sex and the City, in questo caso i rumori della città che davano fastidio a Charlotte, ma c'è un altro episodio, se non mi ricordo male, in cui Carrie Bradshaw non riesce a dormire perché ci sono dei galli del veterinario sotto casa che cantano tutta la notte. E allora, Burrelli, l'animale in casa, un cane che abbaia dalla mattina alla sera, può essere oggetto, immagino inevitabilmente, di lite. In questo caso però forse le decisioni e le iniziative non possono essere così drastiche come quelle che abbiamo indicato prima. Diciamo che i rumori molesti, per essere definiti tali, devono dare fastidio anche a un certo numero di persone, devono essere dei rumori indeterminati, cioè nel senso che non può essere una cosa soggettiva ma una cosa oggettiva. Poi c'è la sensibilità dell'orecchio che, come diceva il dottor Burdo, è importantissimo, e quindi magari io sento dei rumori in modo diverso rispetto a come li possono sentire gli altri. Questo non toglie però che il problema del livello del rumore è un problema fra quello che è un segnale normale trasmesso, perché i rumori d'altronde nella nostra città, nelle nostre case, sono, diciamo così, inevitabili. Cioè, ci sono però rumori leciti e rumori illeciti. E quindi noi dobbiamo andare a batterci su quelli che sono i rumori illeciti e portarli a un livello di liceità. Come? Cercando di vedere un attimino quali sono i possibili accorgimenti. Per esempio, all'interno di casa uno dei possibili accorgimenti è che la maggior parte delle case fatte fino agli anni 60 hanno un bassissimo isolamento a fono acustico, e quindi chiaramente già passare con i tacchi mentre lei si cambia, passare con i tacchi al terzo piano, quello di sotto lo sento in modo molto amplificato a seconda di cosa sia o meno. È chiaro che nel momento in cui noi abbiamo delle situazioni diverse, come potrebbero essere il gallo o la gallina, oppure come potrebbe essere il rumore della radio o del pub sottostante che continua a battere musica a certi suoni, come diceva il dottor Wood, a seconda dei suoni si trasmettono nella casa in modo diverso, i bassi e gli altri si trasmettono in un certo modo, e a seconda che i solai siano fatti in legno o no. Ma chiaro che lì il condominio, l'amministratore, delle segnalazioni può farli. Io ho fatto può essere un tema all'ordine del giorno di un'assemblea di condominio? Assolutamente sì, io su questo caso ho fatto diverse cause a Torino proprio da un punto di vista penale, perché era capitato questo: un pub al piano sottostante, al pian terreno, iniziava a fare le feste a una certa ora quasi tutti i giorni nel quadrilatero romano, i soffitti sono tutti in legno, quindi trasmettevano molto di più tutti questi rumori da soffitto in soffitto, e quindi praticamente dalle 10 di sera, da quando loro iniziavano fino alle 4 del mattino, non dormiva nessuno. Abbiamo messo all'ordine del giorno il problema, abbiamo iniziato a fare tutta una serie di misure con dei fonometri, quindi a tutte le ore dove loro andavamo al piano di sopra, al piano di sopra, al piano di sotto. Abbiamo prodotto questi documenti, abbiamo fatto una causa penale rispetto al 659, come dicevo prima, e il giudice poi alla fine, in questo caso non era il dottor Guarnier, era un altro magistrato, hanno imposto di fare un isolamento nel piano sottostante, quindi del pub, e questo isolamento non trasmetteva più quei suoni così forti. Chi ha pagato? Quello di sotto, e anche le spese legali. È stato condannato perché il rapporto fra il segnale e il rumore, il segnale si deve trasmettere senza quella fonte di rumore. Quella fonte di rumore, con lo stesso segnale, se noi riusciamo a ridurre il rumore, ci sono tantissimi metodi per farlo, anche nelle case, cioè lei magari ha la parete del confinante vicino con un mattone leggero, quindi messo di coltello come si dice in gergo, è chiaro che se quella casa non è isolata e non è isolata bene, che io lì c'ho il televisore, è chiaro che lei la notte non dorme finché... Non ci anticipi troppo i temi di cui parleremo nella seconda parte del programma, perché chiederemo proprio a un tecnico come si fa a fare questi lavori di isolamento, quanto si spende a seconda anche del tipo di lavoro che dobbiamo fare, delle dimensioni della nostra abitazione e non solo. Ti dico intanto che Dennis da Udine, sai qual è la canzone che ricorda? L'ho letto, però non si ricorda il titolo. Ma forse me lo ricordo io, solo grazie, forse la canzone di Frate Cionfoli, che poi adesso non è più frate, insomma ha fatto altre scelte nella vita, però ha cantato anche... Ha fatto scelte di cuore o non di denari? Non lo so, non perché ha abbandonato il sacerdozio. Va e, bene. Forse d'amore, però ha fatto delle scelte, sì. 800 24 00 24, spazio alle vostre telefonate. Abbiamo, ci aspetta da un po' Ivana, sì, che ci chiama da Salerno. Allora poi andiamo, sentiamo subito. Ivana, buongiorno. Buongiorno, io canto quando preparo il pranzo. Poi c'era mia madre, che è morta, teneva l'abitudine di sentire la radio a tutto volume. Vicini di casa si lamentavano perché lei amava molto la musica napoletana, diciamo. Che è bellissima. Infatti vicini di casa, quando mia madre sentiva la voce a tutto volume, si mettevano... Non erano contenti. Andavano da mia sorella, dice: la vuoi improverare tua madre che sente la musica a tutto volume? Io dicevo: ma cosa fa di male? Lei ama la musica napoletana, diciamo. Beh, gli orari erano giusti, no? Comunque Ivana, non è che accendeva di notte... No, erano verso mezzogiorno, siccome che lei amava questa musica, la vicina di casa si lamentava, andava da mia sorella: vuoi rimproverare poi tua madre che accende la radio tutto volume? E sua sorella cosa faceva? Tracca, accendeva pure lei, e quindi c'erano tutti quanti che cantavano in questo condominio, in questo appartamento. Ivana, deve però dirci qualcos'altro? No, io amo cantare, diciamo, quando cucino. Lei canta in cucina, mentre cucina. E andiamo a Luca. Buongiorno, che ci chiama da Mantova. Buongiorno. Luca, eccoci qua. Lei dove canta? Buongiorno. Prego. Lei dove canta? No, non canto, non canto. Oh, che peccato. Ci faccia un motivetto, dai. No, io non canto e chiamavo per un problema. Allora, forse vede che è questo già un problema, non cantare. Comunque, sentiamo che problema ha Luca. Parlavate di acufene, e infatti io ho questo problema, e è dovuto probabilmente all'ascolto di musica ad alto volume da giovane. Adesso ho 42 anni, sì? Ho un ottimo udito, però sento come dei fischi nelle orecchie in tutte e due, sì. E si accentuano molto nei periodi in cui sono influenzato o ho mal di testa, e chiedevo un consiglio pratico, non so, per spegnere l'acufene, che il dottor Burdo ha detto che è praticamente un segnale di perdita di udito. Dottor Burdo, innanzitutto l'acufene, facciamoci, sono i suoni, i ronzì, i ruscelletti che sentiamo, i fischi, che così spieghiamo che cos'è la parola acufene per chi non la conosce. Questo problema personale. Ma che si fa? Beh, se l'acufene dipende dalla sordità, è ovvio che bisogna gestire la sordità, bisogna curare la sordità. Poi esistono degli acufeni, ma sono molto rari, non legati alla sordità. Generalmente sono dovuti o ha una carotide che funziona in un modo un po' strano, ovvero vicino all'orecchio la carotide fa una curva e funziona come un ruscello. Se il ruscello aumenta la portata, noi sentiamo il rumore dell'acqua, così se aumenta ad esempio la pressione sentiamo del sangue, noi sentiamo un fischio che non è altro che la carotide che si fa sentire, che ha questa, che usa l'orecchio come cassa. Cuore e denari. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Toto Nazionale, l'eterno secondo. Te lo ricordi che non ha mai vinto un festival e si è sempre scatenata attorno a lui questa polemica? Però un gran bel secondo, un gran bel uomo, grandissimo cantante, però... Però diciamo qualcuno che non ci piace, perché Raffaele Gualazzi, bell'uomo. Enrico Ruggeri ci piace, Shel Shapiro, andiamo a matte. Toto Cutugno, troviamone qualcuno che diciamo fammici pensare. Allora, io pensaci. So che scatenerò veramente tante polemiche, io però non sono una particolare amante di Vasco Rossi, ad esempio, no? Con tutto il rispetto, grande artista, però lui, ti ricordi quando vinse con Vita Spericolata, è arrivato ultimo, poi da lì però vabbè. Io non sono un amante di lui, però vabbè, chissà il dottor Aquilar. Tu perché non ti esponi? Perché fai sempre parlare me? No, perché allora Vasco mi piace molto. Sì. Tutti quelli che abbiamo citato mi piacciono, sì. Anche Massimo Ranieri, che tu mi dicevi io adoro, mi piace molto. Ada fa uno spettacolo eccezionale. Però rischiamo di essere troppo buone, perché anche quelli un po' cattivi poi hanno successo, no? Sì, sì. E quindi vero. Bisogna anche un po' pungolare, allora, su quel lato. Entro la fine della trasmissione sveleremo anche i nostri no. Dottor Aquilar, buongiorno. Eccomi. Sentito queste due pazze. Molto carine. Che cosa, lei ha buon gusto, ma che cosa ha carpito da questa nostra conversazione su questi nostri gusti musicali? È che è sempre difficile dire pubblicamente un giudizio negativo, è molto più facile dirne uno positivo e stare zitti su quelli che proprio non ce la sentiamo di tollerare. Bravo. Però, dottor Aquilar, abbiamo ricevuto tantissimi messaggi, lei avrà ricevuto anche dai nostri ascoltatori sulle pagine di Facebook il titolo delle canzoni del cuore che associano a Sanremo. Che idea si è fatto? Mi sono fatto l'idea che, come sempre, un rituale antropologico nazionale come Sanremo non lascia nel cuore e nella mente delle persone delle canzoni a caso. Perché ad esempio tutto quello che ci è stato suggerito dai nostri ascoltatori era particolarmente interessante. Ne cito qualcuna a caso dalle tante che sono arrivate sia via Twitter che su Facebook. Per esempio una persona che parlava di Vacanze Romane. Vacanze Romane è una canzone che può essere rimasta in mente a chi desidera godersi quello che ha, quindi fare le vacanze addirittura in città, in un'atmosfera raffinata e gradevole, e quindi è un invito ad utilizzare meglio le proprie risorse. Probabilmente questa persona è attenta a sapere utilizzare bene quello che ha in maniera raffinata. E poi c'era L'Italiano, che stavate appunto citando voi adesso, che è una canzone che diventava particolarmente interessante in quegli anni quando si andava all'estero, perché era molto conosciuta all'estero ed era in qualche modo un voler essere patriottici ma senza essere melensi, e anche questa aveva un significato come dire interessante. Poi ce ne sono molte altre, se vuole ne riparliamo. Ne possiamo riparlare, intanto invitiamo i nostri ascoltatori a continuare a scriverci, a scrivere su Facebook e mandare su Twitter la vostra canzone legata a Sanremo. E intanto però fate a meno di cantarla a squarciagola, magari quando siete in casa in ore notturne, perché questo può creare qualche disappunto in condominio. Per aiutarci a dirimere queste controversie, questa mattina il vicepresidente vicario della NACI, l'associazione degli amministratori di condominio, Francesco Burrelli, al quale, prima di salutarlo, faccio sentire la domanda di Mario da Milano, che ha una bella gatta da pelare nel suo edificio. Mario, buongiorno, ci racconti buongiorno. Un po'. Buongiorno. Altro che Sanremo. No, noi abbiamo questo problema. Nel nostro condominio, circa 3-4 anni fa, ha aperto al piano chiaramente che dà sulla strada un bar. Che nei locali dove prima, fra l'altro, non erano locali commerciali, era un locale adibito ad altro utilizzo. Questo bar praticamente che cosa fa? Oltre a svolgere l'attività diurna di bar normale, spesso nel fine settimana, quindi venerdì e sabato, fanno musica dal vivo senza che il locale sia attrezzato per poterlo fare, quindi non ha il minimo di insonorizzazione e nulla. Io ho 3 figli piccoli, praticamente quando succede è come avere, praticamente tutte le settimane è come avere un concerto in casa. Ci siamo rivolti al condominio, abbiamo fatto un'assemblea condominiale, però non è stato possibile prendere nessuna iniziativa. Ci siamo rivolti poi dopo al comune, l'ARPA è uscita, ha fatto i rilievi, ha trovato il livello di decibel superiore rispetto a quello che è consentito. E quindi? Come è finita la storia? È stata un'ordinanza da parte del comune di Milano e questi signori praticamente per qualche tempo hanno smesso. Hanno fatto ricorso al TAR e il TAR ha dato ragione però purtroppo al ricorso che hanno fatto, adducendo motivi particolari legati al fatto che l'ordinanza doveva essere firmata dal sindaco. Quindi un motivo di forma e non di sostanza. E quindi è ricominciata tutta la cosa. Andiamo a Burrelli, Mario, esatto, perché abbiamo tantissimi ascoltatori, vorrei sintetizzare tutti. Burrelli, che altri passi si possono fare queste persone in questo condominio? Perché mi sembra che abbiano, come dire, una contestazione del tutto legittima. Assolutamente, cioè, sì. Intanto ci sono, certo, adesso loro sono ricorsi, hanno fatto quel tipo di ricorsi, eccetera. C'è anche l'istituto della mediazione che poteva essere attivato in prima battuta per vedere se si trovava una prima. Adesso non si prima. Può più fare perché hanno già fatto ricorso. Adesso non si può più fare perché hanno fatto ricorso, ma in teoria anche per gli altri casi e per gli altri casi più semplici. Ricordiamoci anche che c'è l'istituto della mediazione prima di andare obbligatoria, prima di partire a fare un'accertazione. Dato che lì però nel ricorso del TAR è, da quello che ho capito, non è nel merito, ma nella forma. Lì la cosa importantissima, bisognerebbe vedere un attimino e valutare da un punto di vista, quindi la procedura lì si fa proprio da un punto di vista tecnico, quindi bisogna vedere intanto se ci sono le caratteristiche perché quello possa esercitare quel tipo di musica, secondo se il palazzo nel complesso, perché non bisogna tener conto che solo l'844 per l'emissione rumorosa o meno non è ritenuto da molti di quelle sentenze che dicevo, a partire da quelle delle 247 ma ci fa questi numeri Borrelli, ma non li conosciamo. Andiamo alla ciccia, cosa può fare specifico, Mario? Specifico meglio, cioè il concetto è questo, e il rumore che possono immettere o comunque la musica che possono immettere in modo nocivo, non è detto che per quanto loro la possono esercitare, perché hanno una licenza per poterla esercitare, se questo crea indistintamente o comunque in modo oggettivo un rumore o comunque crea un disturbo alla salute, e lo posso dimostrare da un punto di vista tecnico. E l'hanno già dimostrato, quindi quale altro passo è rimasto a fare da Mario? Quello da fare da Mario è rimettere in ballo, cioè ripartire da capo con un'altra azione, dove si va a vedere che l'ordinanza firmata dal dirigente non deve essere firmata dal dirigente, ma deve essere firmata dal sindaco. È un problema formale. Va bene, devono ricominciare da zero, dopo quello che capisco, però hanno ragione. Il problema è che sono i costi, e bisogna vedere che il penalista che va a fare, perché questo si parla di penale, quindi il penalista che va a fare quel tipo di ricorso vada a verificare veramente tutte le formalità. Grazie Francesco Borrelli. Grazie, torni presto a trovarci. Dottor Burdo, con lei ritorniamo a parlare di quel rumore che noi avvertiamo anche se non abbiamo dei vicini rumorosi. Lei ha parlato di acufene, un segno di ipoacusia, di perdita dell'udito, e ha invitato gli ascoltatori, soprattutto gli uomini, si è dimenticato delle donne perché è un problema più maschile, a fare outing, cioè ad ammettere di avere qualche problema di udito. Abbiamo detto quali sono i segnali, ma dottor Burdo, è difficile fare outing per molti perché tanti pensano che per risolvere un problema di calo dell'udito l'unica strada possibile sia mettere l'apparecchietto, e questo a tante persone può creare dei problemi. Lei invece sottolinea l'importanza di arrivare precocemente ad una diagnosi. Che cosa si può fare? Perché è un buon investimento? È un buon investimento perché le nostre capacità cognitive dipendono dall'udito, questo ce lo dimentichiamo. L'udito non serve solo per sentire Radio 24, una battuta, serve anche per mantenere la nostra intelligenza, la nostra attenzione verso il mondo, è questo che ci si dimentica. Certo. È la base, è veramente il nutrimento del nostro cervello. Se noi non attiviamo e manteniamo attivo il cervello con l'udito, il nostro cervello si deteriora. Ma ecco, quando l'udito diminuisce, noi che cosa possiamo fare? Perché è importante fare outing, andare presto a fare un controllo? Quali sono gli strumenti che voi avete a disposizione oggi per rimettere in forma il nostro udito? Guardi, gli strumenti sono numerosissimi. Lei ha parlato anche degli apparecchi. Molto spesso le persone lo rifiutano perché non fanno outing, nel senso che l'apparecchio non è altro che la dimostrazione agli altri che siamo sordi. Questo è il motivo del rifiuto, non sono fattori estetici. Il motivo profondo è che noi dichiariamo con l'apparecchio di essere sordi. Allora, nel momento in cui noi ci accettiamo, ci guardiamo allo specchio e diciamo siamo fatti così, siamo sordi, ma con l'apparecchio riusciamo a comunicare normalmente, ci mettiamo anche un'antenna in testa, una parabolica, la portiamo volentieri, con disinvoltura, perché ci risolve il problema. Certo. Senta, dottor Burdo, ma per questi famosi acufeni mi dica due parole, perché così i nostri ascoltatori da casa che ci stanno veramente inondando di telefonate, è un segno di ipoacusia, ok. Allora, Allora, nella gran parte dei casi l'acufene si risolve trattando la sordità con i vari mezzi che vanno dall'apparecchio acustico alla chirurgia alla terapia medica. Esiste infatti casi... anche la terapia medica, quindi può a volte bastare anche se una persona ad esempio ha delle disfunzioni tubariche, ovvero ha le tube chiuse, quelle che si chiudono quando si va in montagna per intenderci, sì, per cui sentiamo meno, una terapia medica risolve il problema. Ecco, quindi non è detto che sia risolvibile. Se una persona ha un'otosclerosi che nulla c'entra con l'arteriosclerosi, ma sono degli ossicini bloccati, con un intervento chirurgico risolviamo sia la sordità e di conseguenza l'acufene. E poi ricordate questo che ha molto stupito i nostri ascoltatori, ma in realtà lei me ne aveva parlato riguardo alla carotide e all'acufene, insomma possiamo anche andare a vedere un po' la salute della nostra carotide, come sta, perché potrebbe spiegare quel ruscellino che sentiamo nell'orecchio. Certo. Ho sentito bene? Ma poi anche da aggiungere un problema all'articolazione temporomandibolare, questo è frequente nelle giovani signore, che digrignano molto i denti di notte e quindi contraggono la muscolatura della masticazione, e questo altera l'equilibrio dei muscoli dell'orecchio medio, può essere una causa di acufene. In questo caso, ad esempio, un bite notturno, ovvero uno spessore messo fra i denti, può attenuare molto il problema. Pazzesco, relazioni proprio insospettabili. Vedi, questo per dire che non facciamoci diagnosi da solo, non pensiamo che di non affrontare il problema perché pensiamo che poi ci potrebbe capitare una cosa che non vogliamo fare. La diagnosi è importante. Mi hai dato un assist perfetto per introdurre il prossimo veloce approfondimento, perché anche qua, quando abbiamo il vicino rumoroso, ci viene in mente di proteggerci da questa invasione involontaria, magari vogliamo così fare un lavoro di insonorizzazione di questa stanza particolarmente disturbata, però il fai da te qua è molto complicato, oltre che naturalmente magari ci fa perdere solamente del denaro senza raggiungere nessun risultato. Allora sentiamo qualche indicazione concreta dall'ingegner Matteo Borghi, responsabile settore acustica di ANIT, l'Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico ed Acustico. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Intanto anche per voi professionisti del settore, i rumori si distinguono in 5 categorie. Sì, esattamente. Esiste un decreto dello Stato, il DPCM del 97, che specifica 5 differenti tipologie di rumori. Possiamo avere i rumori aerei, che arrivano dai vicini di casa, per intenderci il parlato dei vicini o la televisione dei vicini, piuttosto che i rumori da calpestio, che arrivano sempre dai vicini ai piani soprastanti, i rumori esterni, quindi l'isolamento rispetto ai rumori di facciata, e infine i rumori degli impianti tecnologici sono divisi generalmente appunto in due categorie. Impianti a funzionamento costante, che fanno un rumore continuo, impianti a funzionamento discontinuo con un rumore variabile, come ad esempio gli scarichi di bagno. Senta, per risolvere i problemi più diffusi, noi parlavamo prima appunto di tutti quei rumori che si possono creare in un condominio per magari comportamenti di vicini non tanto educati, eccetera. Insonorizzare una parete è sempre la soluzione giusta, secondo lei? Sì, può essere la soluzione adeguata. È ovvio che bisogna sempre cercare di capire bene qual è il vero problema. È importante cercare di riuscire a individuare da dove arriva il rumore, qual è la tipologia di rumore da cui vogliamo isolarci. Ovviamente. Ecco, perché magari c'è un televisore che sta nell'altra stanza praticamente dell'appartamento confinante, ci arriva il rumore, ma magari non arriva da quella parete dalla quale ci sembra, no? Esattamente, magari appunto vi è, oltre che da passare attraverso la parete, il rumore può passare attraverso un eventuale ponte acustico, certo, da soffitto, piuttosto che delle pareti laterali, eccetera, eccetera. A cuore denari, come lei sa, il tema denaro è molto importante. Quanto costa fare questi lavori in casa? Ci fa qualche esempio, ingegner Borghi? Sì, è un dato, sono indicazioni sempre molto difficili da dare, perché appunto dipende tantissimo dalla tipologia di intervento che vogliamo fare, piuttosto che rispetto a cosa ci vogliamo isolare. Volendo dare delle indicazioni molto di massima, possiamo dare dei valori in termini di euro a metro quadrato. No, perché immagino che un conto sia proteggerci dal rumore della televisore del televisore del vicino, un conto è se suoniamo noi la tromba e dobbiamo noi stessi proteggere i condomini con noi confinanti. Bisogna sempre capire qual è l'obiettivo. Se io voglio evitare di disturbare io e i vicini, piuttosto che se non devo sentire i vicini, oppure un altro problema classico che veniva forse accennato anche prima, l'isolamento rispetto ai rumori esterni, l'isolamento delle facciate, sono problematiche molto diverse tra loro. Generalmente le soluzioni quali sono? Un sistema possibile è quello di fare delle contropareti a secco, dei contropareti e controsoffitti appunto con sistemi a secco, quindi lastre con nell'intercapiede del materiale fonoassorbente, che consentono effettivamente di incrementare sensibilmente la prestazione fonoisolante delle pareti e dei soffitti, ovviamente, per quanto riguarda l'isolamento rispetto ai vicini e ai piani soprastanti. volendo dare delle indicazioni di costo, appunto, ripeto, molto spannometriche, diciamo così, possiamo dire che una contropareto, un controsoffitto, una spesa attorno ai 25-30 euro al metro quadrato. Ah, ecco. E allora, per qualcuno che avesse, poi lo lascio concludere, Borghi, qualche curiosità su questo argomento, abbiamo ancora 5-6 minuti di tempo per le domande all'ingegner Borghi. Intanto, professor Aquila, che cosa chiediamo? Dottor Aquila, a che punto siamo? Siamo con altre come dire, preferenze raccontate dalle persone. Per esempio, c'è un'ascoltatrice che ricorda di più la canzone Si può dare di più. E l'inferenza che a forma di gioco possiamo fare su questa persona è che intanto c'è una situazione basata sulla cooperazione, perché era una canzone cantata da tre cantanti insieme che cooperavano, e possiamo fare l'inferenza che questa ascoltatrice desidera sempre battersi insieme agli altri per migliorare le situazioni, e quindi per questo poi le resta in mente questa idea. Poi c'erano altri due ascoltatori che avevano focalizzato la loro attenzione sulle canzoni di Mia Martini, da un lato probabilmente per solidarietà con la storia tragica di questa artista, ma quelli che hanno preferito Minuetto, per esempio, potremmo inferire che vorrebbero che il mondo fosse più ordinato. Il Minuetto, come tutte le musiche di quel tipo, incastrano la realtà così difforme in una forma chiara e ordinata, e probabilmente questo esprime il desiderio di avere questo ordine, mentre quelli che hanno preferito Almeno tu nell'universo, sempre di Mia Martini, sono le persone che sembrano eternamente concentrate sull'idea che l'amore romantico è al primo posto degli obiettivi della loro vita, e che quindi pensano continuamente all'idea che trovando un amore romantico risolverebbero tutti i loro problemi, il che, ahimè, non è sempre vero. Andiamo ad Alberto, che ci chiama da Milano. Subito. 800 24 00 24, continuate a chiamare e a scriverci. Alberto, buongiorno. Poi buongiorno. Ti devo leggere cosa ci scrive Alessia, perché le è capitata una cosa nei pressi della sua abitazione pazzesca. Alberto, buongiorno. Buongiorno. Ci dica, siamo qua. 60 anni fa giravo in autostop per l'Europa. Grande. Ero in Germania e per ostelli, ovviamente ero giovane da ostello, tutte le sere dovevo cominciare, quando sentivano che c'era un italiano a cena nella mensa dell'ostello, dovevo cominciare a cantare Nel blu dipinto di blu, un po' in italiano, un po' in tedesco, e mi ha fatto impressione che dappertutto questi giovani erano affezionatissimi a questa canzone che mi è rimasta ovviamente nella testa per anni. Alberto, per anni, ce la sta servendo su un piatto d'argento. Adesso deve cantare, forza, perché se no non la molliamo. Finché non se ne va, finché non finisce la trasmissione. Oltretutto lei bara, perché lei non è di Milano. Ero a Milano quando vi ho telefonato. Sono a 60 chilometri da Milano. Canti, la prego, ci faccia questo regalo. Non può dire di no a queste due donne meravigliose. Va bene, Alberto. Si fa pregare. Grazie, Alberto, per aver chiamato. Allora, dottor Aquila, rimane il blu dipinto di blu. Che cosa ci legge? Che è un grande classico. Che cosa legge lei? È l'assoluto desiderio di libertà. Ecco, infatti, di cui parlavamo prima, e il desiderio di libertà che si sposa con una melodia che esprime il senso di libertà, perché va interpretata anche la melodia con alcuni parametri in psicologia della musica, e in più, come dicevamo prima a proposito dell'italiano, quello che configura una nazionalità, un'appartenenza gioiosa ad una nazione creativa, riconosciuta anche all'estero come tale. Grazie, dottor Aquila, per essere stato con noi. Posso leggere? Allora, intanto volevo ricordare che sul sito di ANIT, l'associazione appunto dell'ingegnere Matteo Borghi, c'è un manuale gratuito che si può scaricare tranquillamente, dove ci sono tutte le indicazioni, suggerimenti utili per insonorizzare le nostre case. Seconda, adesso aiuteremo Alessia in qualche modo, ha acquistato un appartamento fronte mare in una zona molto tranquilla. Nei mesi di luglio e agosto, nel campo di fronte, i circhi si susseguono per quasi due mesi interi. Oltre al fastidio causato dalla musica e lo svolgimento dello spettacolo, che possiamo udire anche a finestre chiuse, vi sono poi i versi degli animali durante la notte, oltre al fatto che il circo, terminato l'ultimo spettacolo della stagione, dalle 23 comincia a smontare il tendone, proseguendo fino alle 2-3 di notte. Cosa devo fare? Chiamo i vigili o l'ARPA? Alessia, vada a chiamare tutti. Io direi che ha tutte le ragioni, naturalmente, perché poi questo circo sarà anche autorizzato dal comune, no? Che forse non ha sufficientemente. Quindi, quando compriamo una casa, cerchiamo di informarci bene. E credo che non sia un tema che noi prendiamo in considerazione. Forse hai dato proprio il suggerimento ultimo, finale, di ottima donnina di denari. Grazie al dottor Burdo per essere stato con grazie noi, buona giornata. Grazie a voi. A presto, salve, grazie anche a Matteo Borghi, a presto ingegnere. Arrivederci. Arrivederci. Noi torniamo domani, vi aspettiamo. Buona giornata.